Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dalle pagine del Domenicale, il settimanale culturale del Sole 24 Ore, Giuseppe Scaraffia commenta la nuova edizione de L'arte di essere povero, il libro scritto nel 1925 dal politico e dandy francese Bonny de Castellane. Hai visto quel signore Céleste? Chiese Marcel Proust alla cameriera. Hai notato i suoi abiti, la sua eleganza e l'eccentricità di quel bellissimo bulldog con i chiodi di rame sul collare? Beh, non ha un soldo. E tuttavia, come sa mantenere l'apparenza davanti alla gente? Il dandy che era appena uscito, Bonny de Castellane, era stato uno degli uomini più amati e ammirati di Parigi. Sposato con una brutta ereditiera americana, Anna Gould, aveva rifatto a spese della consorte una copia perfetta del Trianon di Versailles. Quando faceva visitare il suo meraviglioso palazzo, arrivato alla camera della moglie, s'arrestava un momento. E questa, diceva indicandola, è il rovescio della medaglia. A chi gli chiedeva il motivo delle sue fantasmagoriche serate, Castellane rispondeva «per puro divertimento». Incapace di sopportare la volgarità della Repubblica, in politica era sceso in campo con la destra. «Non mi sentivo affatto per la bruttezza e per l'ipocrisia che erano all'ordine del giorno. Allora ho dovuto creare delle cose stupende». Dopo il divorzio, Bonny era completamente rovinato. Per sopravvivere si era messo a fare l'antiquario e vendeva mobili ai ricchi americani. Era ancora altero e sopportava con molto stile la sua disgrazia. È l'unica persona che abbia mai conosciuto capace di passare da 10 milioni di rendita alla piattaforma di un autobus con la più perfetta indifferenza, diceva Misia Sert. Dopo le feste sfarzose di un tempo, si era ridotto a offrire cene modeste nel suo piccolo appartamento. Però stendeva una guida rossa sulla scala condominiale fino al marciapiede di quel quartiere borghese. Inoltre sapeva mescolare imprevedibilmente le persone, facendo scaturire le conversazioni più interessanti. Sempre molto curato, con il cilindro e una camelia all'occhiello, montava a cavallo al Bois de Boulogne. Non erano più i puro sangue di un tempo, ma il pubblico cercava invano sul bel viso impassibile la disperazione del decaduto. Non ero mai stato così pieno di orgoglio come nel momento in cui mi si credeva irrimediabilmente vinto. La sera uscivo volentieri tra la gente, che si stupiva nel vedermi tanto tranquillo. Mentre il mio cuore boccheggiava, una sorta di forza interiore sbocciava in sorriso sulle mie labbra. Mi ipnotizzavo da solo e mi persuadevo che superare simili difficoltà dava un certo piacere. Quell'uomo, in apparenza frivolo e superficiale, aveva sperimentato, scrive Ernst Jünger, in un incontro pericoloso, la situazione di un dandy che non si lascia turbare nella propria superiorità dal miserabile veicolo che lo sta trasportando. D'Annunzio, che aveva apprezzato le sue saporite memorie, fingeva di criticarlo. Bonny de Castellane osa scrivere nel suo libro che è stato quasi più prodigo di me. Poi il Vate raccontava di un amico che aveva vinto 3 milioni al casino di Dovì. Mentre gli altri si divertivano a immaginare cosa avrebbero fatto al suo posto, lui aveva chiesto a Castellane: «E lei, Bonny, che ne farebbe?» Al che l'altro aveva risposto, senza l'ombra di un sorriso o di un'esitazione, «Dei debiti». Ma un altro mistero aleggiava intorno a lui. Secondo Proust, riferisce Paul Moran nel Journal Inutile del 1969, superati i 50 anni, l'uomo che aveva avuto tutte le donne più affascinanti di Parigi era diventato omosessuale. Difficile valutare la veridicità di una simile affermazione. Stranamente, i protagonisti di quella Parigi sotterranea non ne hanno fatto mai parola. In ogni caso, Bonny aveva posato, senza saperlo, per un personaggio bisessuale della ricerca del tempo perduto, il biondo, roseo e distintissimo Marchese de Saint-Loup. Era già molto malato quando le sue ex amanti cominciarono a sfilare nella sua stanza per farsi restituire le lettere compromettenti che gli avevano mandato. Bonny sopportava stoicamente il dolore. Moribondo, insisté per vestirsi faticosamente da sera per accogliere l'ultima visita di riguardo, quella dell'estrema unzione. La vita è fatta solo di inquietudine, di tristezza e di prove. Bisogna credere, se no tutto diventa assurdo e bisogna sapere accettare tutto senza rivoltarsi, ma coraggiosamente. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giuseppe Scaraffia dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Gli zoo sembrano essere tornati prepotentemente di moda. Ogni anno in tutto il mondo 600 milioni di persone visitano i giardini zoologici, ma non si placano le polemiche da parte di chi si domanda se abbia ancora un senso tenere gli animali in cattività. Dietro i cancelli arrugginiti dello zoo di Breslavia, in Polonia, l'edera si sta impadronendo delle pareti del fatiscente edificio in stile gotico che ospita l'amministrazione. All'interno Radoslav Ratajczak, il direttore dello zoo. Lo vede con i suoi occhi la sfida che ho di fronte, dice Ratajczak, indicando la vernice scrostata sul muro. Dall'alto della parete, la testa di un grande rinoceronte nero osserva ogni mossa del direttore. Lui la odia e ha cercato di toglierla, ma è imbullonata alla muratura. Non mi piacciono gli animali morti, spiega. Ratajczak, un biologo che ha l'aria di un babbo natale tabagista, non perde l'allegria neanche di fronte al compito colossale che lo attende. Quando ho ottenuto il posto da direttore 2 anni fa, si è assunto l'impegno di trasformare il peggior zoo della Polonia in un bioparco all'avanguardia. La testa di rinoceronte è un ricordo dei tempi in cui il metodo migliore per acquisire animali per uno zoo consisteva nello sparare alla madre per catturare i cuccioli. Le sfide con cui deve misurarsi Ratajczak sono le stesse che devono affrontare tutti i decrepiti giardini zoologici dell'Europa orientale, ora che sono costretti ad accettare le regole dell'Unione Europea sul trattamento umano degli animali. I direttori degli zoo possono sostituire le sbarre di metallo con fossati e le gabbie con recinti accoglienti ed ecocompatibili, ma sono realmente in grado di modificare la natura di fondo delle loro attività, cioè esporre animali selvatici in cattività per il divertimento e l'istruzione degli esseri umani? Perché storciamo il naso se vediamo gli animali selvatici nei circhi, ma accorriamo in massa, a milioni, a vederli negli zoo? Dopo una crisi di interesse tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, lo zoo come divertimento per famiglie è tornato in grande stile. Ogni anno i giardini zoologici di tutto il mondo ricevono 600 milioni di visite, secondo la WASA, Associazione Mondiale degli Zoo e degli Acquari. In Europa sono tra i siti turistici più visitati in assoluto. Lo zoo di Berlino, per citare l'esempio probabilmente di maggior successo, è una società quotata in borsa, anche se non realizza profitti, che commercializza a tutto spiano star a quattro zampe come Knut, l'adorabile orsacchiotto polare, ora secondo alcuni un adulto disadattato. Anthony Sheridan è un imprenditore in pensione dello Hertfordshire che si è dato come missione personale quella di portare gli zoo europei a un livello accettabile. Il suo campo è l'elettronica e non ha nessuna competenza specifica nell'allevamento di animali, anche se quando aveva 12 anni era riuscito a far riprodurre in cattività delle manguste indiane. La passione per gli animali lo ha accompagnato per tutta la vita. Pagando di tasca sua, Sheridan ha incontrato e interrogato i direttori di oltre 60 fra i principali zoo del vecchio continente. «Quello che mi interessa è la ragione dell'esistenza degli zoo, oggi e in futuro», dice Sheridan. Sheridan ha stilato una classifica degli zoo migliori d'Europa, basandosi su 25 fattori, fra i quali la collezione di animali, la qualità dei recinti, il numero dei visitatori, gli investimenti complessivi, il coinvolgimento delle scuole, l'attività di conservazione della natura, in loco e nello zoo, il marketing e la pubblicità. Vienna, Lipsia e Berlino sono in testa alla classifica, seguite da vicino da Rotterdam e Chester. Lo zoo di Londra non riesce a piazzarsi fra i primi 10. Breslavia è in ultima posizione, ma Sheridan prevede che risalirà grazie al programma di rinnovamento portato avanti da Ratajczak. Sheridan è convinto che non ci sia alternativa al tenere gli animali in cattività a scopi di conservazione ed educazione. Il problema è che la pratica, in troppi zoo, non tiene fede alle promesse e sostiene che per portare un tipico giardino zoologico europeo a un livello accettabile servirebbero 100 milioni di euro nell'arco di un decennio. A Breslavia, Ratajczak dice che il problema è che, dei 4 precetti base di uno zoo, conservazione, ricerca, educazione e ricreazione, solo l'ultimo produce profitti. Per finanziare le altre funzioni dello zoo, devi convincere la gente a comprare il biglietto. E cosa vuole vedere la gente? Mega vertebrati carismatici come gli elefanti e le superstar carine e coccolose come l'orsetto Knut di Berlino. La Eurogroup for Animals è convinta che gli elefanti, di cui soltanto la specie asiatica deve fare i conti con un declino della popolazione, non dovrebbero stare negli zoo. Secondo la RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un elefante in uno zoo normalmente vive solo 15-16 anni, la metà dei suoi colleghi impiegati negli accampamenti di taglialegna della Birmania. I tassi di riproduzione sono molto più bassi che in natura e le malattie, problemi di circolazione, problemi alle zampe ed herpes uccidono il 60% di quelli che riescono ad arrivare all'età adulta. Gli zoo sostengono che tenere gli elefanti aiuta la conservazione, ma il World Wide Fund for Nature è convinto che la riproduzione in cattività contribuisca in modo trascurabile alla preservazione della specie. E che dire di Knut, l'orso polare che è diventato un fenomeno mediatico per lo zoo di Berlino dopo essere stato abbandonato dalla madre tosca, che prima lavorava in un circo. Nel 2007 lo zoo della capitale tedesca ha avuto oltre 3 milioni di visitatori, con introiti calcolati in 5 milioni di euro. Lo zoo si è affrettato a registrare Knut come marchio commerciale. Sono arrivati peluche, tazze, magliette e caramelle a forma di orsetto. C'è stato addirittura l'onore di una copertina di Vanity Fair con l'attore, ecologista impegnato Leonardo DiCaprio. E la BDO Consulting ha attribuito al cucciolo di orso polare un brand value di 10 milioni di euro. Altri zoo tedeschi, come quello di Stoccarda e quello di Norimberga, si sono affrettati a procurarsi a loro volta corrispettivi fotogenici dell'orsetto superstar. Ma Knut, come molte celebrità bambine, sembra essere caduto vittima della sua stessa fama. I tabloid tedeschi sostengono che l'orso sarebbe diventato drogato di applausi. Dicono che piange quando la folla se ne va. Secondo uno zoologo tedesco, è diventato un sociopatico che non riuscirà mai ad accoppiarsi. Bernard Blaskiewicz, il direttore dello zoo, dice che i presunti problemi comportamentali di Knut sono un'invenzione dei media. Ma il più grande attiraturisti del mondo animale è il panda gigante. Tutti i panda sono di proprietà del governo cinese e vengono affittati agli zoo di ogni parte del mondo a un prezzo di listino che arriva fino a $1 milione, 725 mila euro l'anno per una coppia in età riproduttiva. Ma far riprodurre effettivamente questi esemplari non è per niente facile. L'estro delle femmine dura appena 3 giorni l'anno e quando succede in Cina impone una baby tax di $600 mila, 435 mila euro. Esiste una controargomentazione in favore del metodo più tradizionale di catturare ed esporre il raro e l'esotico, e cioè che può essere il solo modo per salvare una specie. Abbiamo di fronte un futuro in cui una parte sempre maggiore della natura esisterà solo in una sorta di museo. Un quarto delle specie di mammiferi è a rischio di estinzione, la metà registra un calo della popolazione, secondo la lista rossa dell'UICN. Ma la lista rossa dimostra anche che la riproduzione in cattività può riuscire a recuperare specie sull'orlo dell'estinzione. L'orice d'Arabia è stato reintrodotto in natura e anche la grande scimmia leonina del Brasile. E gli zoo forse sono l'unico ambiente sicuro per i diavoli della Tasmania, ora che una rara malattia minaccia di estinguerli nel giro di 20 anni. La cattività potrebbe essere l'ultima speranza per gli scimpanzé, riconosce Jane Goodall, la celebre studiosa dei primati. Sarebbe meraviglioso se gli scimpanzé potessero vivere in aree protette, ma spesso subiscono la distruzione dei loro habitat. I primati possono avere una vita felice dentro zoo ben gestiti e di larghe vedute. Il segreto è fornire spazio e stimolazioni a sufficienza, un buon gruppo sociale e la possibilità di compiere delle scelte. A volte, quando vedo gli scimpanzé in uno zoo di questo genere e penso ad alcuni dei posti che ho visto in Africa, credo che probabilmente uno scimpanzé preferirebbe questo. Allo zoo di Breslavia alcuni lavori importanti sono già stati portati a termine. Rataschak ha costruito una nuova casa per i primati con accesso a una grossa isola, che deve sembrare una specie di Shangri-La per i gibboni, che da 26 anni erano rinchiusi in gabbie piccolissime. Ma per quel che riguarda la conservazione della specie, Rataschak è spietatamente realistico. «Stiamo perdendo la guerra», dice. «Stiamo vincendo qualche piccola battaglia». Eppure è convinto che lo zoo di Breslavia abbia un posto permanente nella lotta. In tutte le culture antiche si trovano strutture simili agli zoo, aggiunge. Gli egiziani, i cinesi, i maya. Gli esseri umani hanno sempre avuto il bisogno di stare insieme agli animali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Peter Barber, Ma perché sono ancora in gabbia? Dal numero 10, giugno 2009, del mensile IL, Intelligence in Lifestyle.